A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La Zanzara. Nuova, ti ho comprato però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. T'ho rimesso in vita, facendoti sentire un borghezio dannata, sento che ridi già, Cosa ridi? Rimettimelo, ti prego, Borghezio, sui romanzi, rimettimelo, ti prego. Ma perché ti sento male? Perché? Borghezio, perché? Dove sei? È una checchina ormai, perché dove ti sento sei? Male? Dove perché sei? Perché ti sento male? Perché ti sento male? Borghezio, risentiamolo, Ora ti fa male un dito e il dottore ha detto già, basta fare una puntura e tutto passerà. Arriva. A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. Beh, fu una mitica puntata della Zanzara con Marione Borghezio in studio. E dopo la nomina di Monti a senatore a vita. Io dico, abbiamo la trasmissione, per quale diavolo di motivo sei per strada? Io vorrei capire, per quale diavolo di motivo sei per strada? Ti vuoi fermare? Ma non me ne frega niente, abbiamo la trasmissione, non puoi stare per strada, è una cosa ridicola, non ha senso. Con la... Ma c'è il cellulare, sono la linea va e viene, la linea va, lo vuoi capire o no? Ma io sono sul territorio. Ma che territorio? Non mi rompere le scale, guarda, mi fai arrabbiare sul serio, cioè non si prende la linea. Non me ne frega niente, non me ne frega niente. Berlusconi, la punturina, spettacoli in costume non volgari, anzi bunga bunga una battuta. Dopo la cena, alcune volte le mie ospiti organizzavano nel teatro della residenza degli spettacoli con musica e costumi. Spettacoli che non avevano alcunché di volgare e scandaloso. Sopra i pattini a rotelle, come il vento andavi tu, ad un tratto hai fatto un volo. E a proposito della dizione bunga bunga, questa espressione nasce da una vecchia battuta che ho ripetuto più volte prima dei fatti contestati ed è stata riportata doviziosamente dalla stampa. Le dichiarazioni spontanee di Berlusconi questa mattina al processo Ruby, vabbè, tutto abbastanza scontato, non ho mai avuto rapporti... Stai calmo, non ho mai avuto rapporti intimi con... Io fra poco ti caccio, oggi. Se non sento bene ti caccio. Non ho mai avuto rapporti intimi con Ruby. Inutile dire che io non ho avuto alcun tipo di rapporto intimo con lei. E che durante la sua permanenza alle cene non vi sono mai stati accadimenti di natura medica. Beh, però il passaggio su cui insiste ancora Berlusconi è questa storia della nipote di Mubarak. La nipote di Mubarak, cari ascoltatori della Zanzara, torna ancora la questione della nipote di Mubarak. Avevo chiesto notizie di questa Ruby allo stesso presidente Mubarak, raccontandogli di come l'avevo conosciuto e della sua storia, convinto com'era che fosse una sua parente. Alla mia domanda se conoscesse la madre di Ruby, la risposta fu affermativa, mi disse che si trattava di una famosa cantante che effettivamente faceva parte della sua cerchia familiare. Cioè, non ho capito bene, la madre forse conosceva la madre di Ruby, una cosa pazzesca. Mi mentì, Ruby. Sentiamo ancora Berlusconi, questa è strategia difensiva naturalmente. E mi resi finalmente conto che Ruby aveva mentito e che si era costruita una seconda diversa identità in sostituzione della sua condizione reale, che era una condizione davvero miserabile. Nipote di Mubarak. Ma scusami, dimmi, ma di che stupisci? È un niente, ti ho cacciato stasera, vai al diavolo, va. Sallusti, anzi no, No, che mi hai fatto confondere come al solito. Alfano, cacceremo dal PDL ladri, rubagalline e gaglioffi. Noi cacceremo senza nessuna tolleranza, tolleranza zero, noi cacceremo ladri, rubagalline, gaglioffi, malfattori, perché non faremo in modo che costoro sporchino la nostra bandiera. C'è poi la questione delle isole Cayman, le isole Cayman. Cioè, non è possibile, secondo alcuni, andare a cena o comunque farsi finanziare da uno che ha un, in termine tecnico si chiama hedge fund, alle isole Cayman. Come è successo a Renzi, che ha radunato in maniera trasparente alcuni investitori, alcuni finanzieri, per farsi dare i quattrini, i danè, i soldi. D'Alema però dice, beh, una notizia, non è gossip, perché insomma c'è qualcosa di losco, e Bersani oggi ha detto, beh, insomma, non si possono accettare consigli da chi ha le isole Cayman. D'Alema. Il fatto che la società Algebris Investment abbia sede alle Cayman è una notizia, non è gossip. Io sono giornalista professionista, diciamo. So distinguere tra il gossip e le notizie. La gente comincia a capire con che genere di personaggi abbiamo a che fare. Non so se si riferisce agli investitori, a questo Davide Serra, oppure a Renzi, eh. Comunque, siccome c'è un contatto con le isole Cayman, Renzi improvvisamente, dopo essere stato berlusconiano, al soldo di non so che cosa, è diventato anche amico di quelli che evadono il fisco o che vogliono trovare paradisi fiscali. Questa è la situazione, che volete fare? Ovvio che ormai vale tutto, scusa, ovvio. D'Alema vuole che io faccia il nonno. Ti faccio parlare il meno possibile, che mi hai rotto le scatole. Renzi non chiede di essere appoggiato, vuole mandarci in pensione, anzi ha detto ai giardinetti a fare il nonno, non voglio fare la collezione delle cose che ha detto. Quindi lei non lo voterebbe? Si rivolga a lui. Ma lei lo voterebbe? Questo è un altro discorso. 800 24 00 24, è con noi la mitica, intramontabile donna Assunta Almirante. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Come sta? Io sto benissimo. E meno male, e meno male, se non ci fa. Io sto molto bene. Ma stai zitto, non starnazzare, non stare in mezzo alle discussioni, che non si sente, già non si sente niente. Secondo, parli in mezzo alla gente. Quando parlano gli altri sei una cosa drammatica, un dramma praticamente. Ma con chi ce l'ha? Parenzo, con Parenzo, è una cosa incredibile. Incredibile. Allora me lo mandi a casa che lo meno, va. Ecco, gli dia due scappellotti, su. Senta, ma le piace l'idea della rottamazione? Ha sentito D'Alema? Ho sentito che lo vogliono rottamare. Sì, lo vogliono far certo, andare. Sono molto carini, sono molto garbati pure. Cioè? E beh, dico io, ci può essere un sistema diverso che dire rottamare. Rottamare si fa un mobile, si fa una sedia, ma un individuo di qualunque specie esso sia non la puoi rottamare, è una parola fuori senso. Cioè è volgare, molto volgare, eh? Ma non è volgare, è inutile, perché l'uomo non lo puoi rottamare. Ma lei lo rottame, cioè, vabbè, è una cosa per dire non puoi più. È una cosa di disprezzo, ecco. Una cosa di disprezzo. Ma lei, D'Alema, lo vorrebbe ancora in Parlamento oppure no? Ma guarda, ci sono certi cretini che addirittura le devo dire che D'Alema forse vale ancora un poco di più di tanti cretini nuovi che hanno nominato. Ah, lei dice, eh? Eh sì, ce n'è proprio una squadra, eh? Dunque, lei rifiuta quest'idea, insomma, che bisogna far posto a gente nuova? Bisogna fare posto. Prima di tutto debbono cambiare la legge. Vabbè, perché questo... noi non siamo disponibili ad essere nominati perché non abbiamo il cervello alla mano. E poi? Poi bisogna scegliere gli uomini in maniera che io ho la possibilità domani, se lei non fa il proprio dovere, di fermarlo per strada e di attaccarlo pubblicamente sui giornali per dire il signor Tizio ha rubato, mi risulta, querelami. Oppure può dire il signor Tizio va a fare le vacanze fuori. Comunque, e spende un mucchio di soldi. Meglio perché lei lo conosce, ha capito? Meglio D'Alema di tanti, lei dice, di tante persone pure nel centrodestra. Ma da parte di tutto, perché adesso non c'è, è inutile dire centrodestra, centrosinistra, non c'è più niente. Scusi Parlamento un attimo. Parlamento c'è per modo di dire, che si chiama Parlamento invece che eleggimento. Sì. Ecco. Però scusi un attimo. Tutti, donna Assunta. Perché nessuno, ci sono gente, credo che abbia quinta elementare e vogliono fare le leggi, ma quale leggi in Egitto fanno? Quale hanno fatto di nuovo? Ci hanno portato in Europa dove stiamo morendo di fame e dove la gente si spara, gli impresari che non possono finire di lavorare. Però scusi un attimo, donna Assunta, io voglio capire una cosa. Lei dice, ha sentito questa cosa dei giardinetti, no? No, e che cos'è? Cioè, dice da lei, ma Renzi vuole che io faccia il nonno ai giardinetti. Però non è che fare il nonno ai giardinetti è una cosa brutta. Lui i giardinetti, che non ho capito che vuol dire. Cioè andare coi giardinetti, andare ai giardinetti, sai, gli anziani che vanno ai giardinetti, lei magari non ci va, ma ci non sa. Questo non ci vanno ai giardinetti, ma ormai prima di tutto l'ha detto in un periodo in cui arriva il freddo. Però è il primo sbaglio. Però D'Alema è un gran glielo doveva dire ad aprile, ecco, glielo poteva dire ad aprile, ma che glielo dice il mese di ottobre, di novembre, mi sembra una cosa fuori posto. Però D'Alema è meglio di portare la coperta. A lei piace più D'Alema di Renzi? No, a me non mi piace nessuno dei due, perché non amo nessun politico più. Vabbè, però meglio D'Alema di Renzi, o no? Ma io non c'è né meglio né peggio, guarda. La gente ormai è tutto uguale. Tutto uguale, no, su, sì, dai. Sì. Traffico, c'è... torniamo subito. Guarda, io sto ad una mezza trasmissione. Sì, che è successo? E poi ad un certo momento ho conosciuto due signore, che non faccio il nome, che una è la moglie e l'altra è il marito. Sono due signore. E beh? Due signore, ha detto mio marito. Io guardandolo ho visto che avevano due gonne e sono rimasto con la bocca aperta. Ah, perché c'erano due. Non facciamo nomi. No, due donne che erano moglie e marito. Sì. Cioè moglie e marito, erano sposate, insomma, no, moglie e marito. Sì. E vabbè, all'estero, ma sposato. Perché è rimasta con la bocca aperta, scusi? Beh, perché io francamente non ho visto mai un cane con un cane. Ho visto sempre un cane con una cagna. Ma come il cane con una cagna? La mucca che cerca il toro e il toro che cerca la mucca. Ma chi erano queste qua, scusi? Ma è inutile, io non faccio nome perché non mi interessa. Ah, l'onorevole Concia, ho capito. No, era proprio lei. Ma come no? L'onorevole Concia? Escludo nella maniera assoluta. L'onorevole Concia e la moglie erano loro. Ma l'ho vista, loro. Ma l'ho vista pure io. Ma io non lo dico perché non è vero. Sono due persone anonime, che tanto è vero che io l'onorevole Concia gli ho presentato il libro suo. Ho capito. Perché è rimasta stupita dal fatto che sia... stupita perché ho visto due gonne e quindi sono rimasta con la bocca aperta. Vabbè, ma due donne che si vogliono bene si possono anche sposare, donna Assunta. Ma certamente, perché no? Io lo dico, però è per dire che è cambiato il mondo. È no? cambiato il mondo, nel senso che lei non ha mai visto due... E magari ci sono anche due cani... Che no, si accoppiano. Io non l'ho mai visto. No, io sono una contadina abituata a palazzo, ma non ho mai visto due cani con due. Cioè il mondo cambia, lei dice il mondo. Un cane e una cagna. Il mondo cambia in peggio, dice lei. Il mondo cambia in peggio, dice lei. Cambia in peggio, quindi cambia. Questo punto, invece di preoccuparsi della miseria. Siamo qui, Parenzo, mi senti? Benissimo. Sì, benissimo. Vabbè, lasciamo perdere. Non mi fare dire parolacce. Non mi fare dire parolacce. Adesso ti do un telefono fisso e mi chiami al fisso. Sì, bello. Solo che la trasmissione inizia alle 6:30. La Tulliani ha rovinato Gianfranco Fini, secondo lei? Donna Assunta? Io non parlo di queste cose, gliel'ho già avvertito. Ma come non parla di queste cose? No, non mi interessa, guarda, sono faccende che non mi interessano. Non le interessa la casa di Monte Carlo? No, io non abito a Monte Carlo, abito qui a Via Archimede. Oh, che lei abita a Via Archimede, non a Monte Carlo? E poi non mi piace Monte Carlo, lo conosco molto bene, è triste ed è monotono, non c'è niente. Non la c'è passeggiata niente. Va, bisogna farsi solo la passeggiata da Boulevard de Moulin fino al dove si gioca. Io siccome non sono una giocatrice, non conosco le carte, quindi non amo andare a Monte Carlo. Però scusi, questa storia è tornata fuori di nuovo, questa storia della casa di Monte Carlo. Però tanto non serve a niente, parole. Ma Fini ha detto che si dimetteva. Lei la conosce la parola? Parole. E queste sono parole. Però scusi, lui aveva detto che se veniva accertato che la casa era del cognato si dimetteva. Ma intanto non è del cognato, però non andiamo a vedere dove sono le cose. Praticamente ha ragione. Lui ha detto del cognato, quindi ha detto se la casa è di mio cognato mi dimetto. Siccome non è del cognato, di conseguenza ha ragione di non dimettere. Cioè l'ha acquistata il fiduciario, però sembra che non glielo so dire. Posso dire che siccome non è del cognato, lui ha ragione perfettamente, ma di non dimettersi. Ma anche la Santanchè vuole rottamare qualcuno nel PDL, letto? Beh, la Santanchè potrebbe farsi un pochino più zitta su queste faccende, perché non dico che sono più grossi di lei, ma insomma ci sono uomini che hanno praticamente viaggiato in politica prima di lei, per quanto si possa essere intelligente, lei lo è e non è una cretina, però il silenzio è d'oro. Ho capito, però dice che bisogna azzerare tutto, che tutti si devono dimettere. Allora comincia ad azzerarsi lei stessa, no? Ho capito, però cioè, lei dice che sono gli altri che hanno portato il PDL dal 30%, non so quant'era, fino ai minimi storici. Un po' ha ragione, o no? Ma lei prima naturalmente era con Alleanza Nazionale, cerchiamo di capirci, perché ha cambiato. Poi è andata con Storace. Poi è passata con Forza Italia. Poi con Storace. Poi è passata con Storace, con la destra. Sì, e allora? Poi con la destra è passata da capo con Forza Italia, e io quindi adesso è passato col PDL, e dove deve andare a viaggiare ancora non lo so. Allora che si faccia un partito regolare dove praticamente ci resta fissa. Ecco, vuole fare una cosa nuova, capito? Vuole fare una cosa nuova. Appunto, siccome ne ha fatti quattro che sono andati male, non sappiamo il quinto che fine gli farà. Ecco, quindi è un'incognita con un punto interrogativo. Però è decisa, è una donna combattiva, una gran passionaria. Certo, o no? Va benissimo a combattere, perché tanto la guerra non c'è, e quindi si fa a battaglia da sola. Pare che interpreti il pensiero di Berlusconi, però. Io non credo che Berlusconi sia così ingenuo. Per quanto il povero Berlusconi gli hanno dato tante di quelle donne, che io non ci credo proprio, di conseguenza. A che non crede? Cos'è che non crede? Non credo a tutte le fesserie che scrivono, no, perché ad ognuno gli debbono dare l'incarico. C'è quello che ha rubato, c'è quello, è un impiego anche quello di scrivere, no? Parenzo, ci sei? Parenzo? Ma lei a chi cerca? Parenzo sto cercando, purtroppo, è la mia condanna. Parenzo, ci sei? Ma lei lo manda a rottamare Parenzo. Brava, brava. Ma come si permette? Ma ha detto benissimo, ha detto benissimo. Ma come si permette? Ha detto benissimo. Ma non mi permetto, ho sempre dato solo un consiglio, visto che parlava di rottamare. Brava. Ma come si permette? Brava donna Assunta, bravissima, bravissima. Io comunque, guardi donna Assunta, quando vedo la Santanchè mi ricorda tantissimo il carattere di Almirante. No, non faccia queste proporzioni, perché sennò io la querelo. Non si permetta minimamente. Perché lei non è all'altezza di dare giudizi di questo genere. Però scusi, insomma, è una donna combattiva. A me sono faccende che non mi interessano, ma Almirante era Almirante e basta. Non si possono fare paragoni con uomini che avevano tanti chili di cervello, non minimale, ma enorme. Quindi non facciamo il paragone. E perché invece lasciate in pace i morti. Perché lei invece la Santanchè che c'ha? Io dico lasciate in pace. No, i ma morti. Dico nel cervello che c'ha, donna Assunta? Non lo so, è una donna intelligente e capace, ma non ha nulla a che fare con Almirante. No, lei ha detto quello c'ha tanto nel cervello e lei c'ha invece. No, ho detto lasciatelo in pace. Ma no, è un uomo che aveva il cervello. Ecco. Ho capito, ma è Parenzo. Poi degli altri non mi interessa. Comunque, io non vado a fare l'esame clinico medico di chi ha il cervello o meno. Io parlo di un uomo che si deve avere rispetto, perché non c'è più. E lo sa che quindi non è nella condizione di potersi difendere, ma questo, e non paragonatela a nessuno. Ma questo è quel cretino di Parenzo, purtroppo. E allora ecco, è l'amico suo, allora, perché se lo tiene. Lo mandi a quel paese, per favore. Mandi lei, che è amico suo, non amico mio. Io non ho il bene di conoscerlo. La ringrazio e l'abbraccio. Io pure, arrivederci. Eccoci qui, 1917 800 24 00 24, ci sei? Pronto, buonasera. Buonasera, dove sei? Come mi sente ora? Ma così, dove sei? Dove ti trovi? Non è possibile, dice così. Adesso ti passo l'onorevole Gentiloni, tra poco. Ma perché mi devi passare l'onorevole? Comunque sono in fila al taxi. Sì, perché mi devi, ma non hai al numero fisso, mi hai detto? Adesso ti do il numero fisso tra un po'. Sì, tra un po' quando? Alle 21? No, arrivo tra 10 minuti, il tempo di farlo stato. Io ho il numero fisso. Vabbè, il numero fammi fisso. Sentire. Ma adesso però non perdiamo tempo. Fammi sentire D'Alema, perché per favore. Guarda, stasera sono furibondo. D'Alema, ma vuoi distruggermi? Senti bene ora, però. Vuoi distruggermi? Provaci, D'Alema. Se uno mi dice aiutami a rinnovare, io aiuto a rinnovare e mi faccio da parte. Se uno mi dice ti voglio cacciare, ti voglio distruggere, voglio porre fine alla tua carriera politica e altre frasi di questo genere, io, no, io dico provaci, che devo dire, scusa. Renzi provoca scontri, vuole distruggere, sempre D'Alema. Chi chiede il rinnovamento nel rispetto e nel coinvolgimento delle persone e chi invece vuole distruggere. Chi vuole distruggere provoca degli scontri. Ma dov'è Gentiloni che mi dovevi passare? No, non c'è, è andato via. Però ah, ecco. Se vuoi degli ospiti internazionali, hello? Buonasera. Un'altra stupidaggine che hai detto, non mi interessa. No, D'Alema Staffelli. Dal Giappone o dalla Cina. Non me ne frega niente, D'Alema Staffelli. D'Alema Staffelli. Era un ospite internazionale. No, è il contrario, ho detto non sono un cane morto. E come mai? Chi ha detto che lei era un cane morto? Un altro al quale io ho dovuto smentire. Chi è stato? Chi è stato, signor D'Alema, a dire una cosa del genere? Arrivederci. Lei è i servizi segreti. Li può fare neri quando vuole, questi signori. Magari che si sbaglia, è Monti il capo dei servizi segreti. Io faccio solo il controllo parlamentare. Appunto, lei controlla, quindi può fare di tutto, signor D'Alema. Arrivederci. Ma glielo dica. Glielo dica che loro non sanno con chi se la stanno prendendo. La rincorsa di Staffelli col tapiro a D'Alema, i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Bersani contro Renzi per la cena con uomini d'affari, anche D'Alema lo attacca, sfascia tutto, lui replica faccia a faccia su Finanza e Trasparenza. Dichiarazioni spontanee di Berlusconi al processo Ruby, mai scene di sesso ad Arcore, stretta di mano tra il Cavaliere e la Boccassini. In Lombardia presto al voto, il governo è d'accordo, dice Formigoni, ma Alfano frena nel PDL dibattito sul futuro del partito. Anticorruzione, Monti, volevamo fare di più, su questo nessun governo ha fatto meglio, le riserve del CSM sulla prescrizione. Anche la Corte d'Appello condanna la Fiat, l'azienda deve riassumere i 140 lavoratori di Pomigliano iscritti alla FIOM. L'Istituto Dermatologico Italiano ad un passo dal fallimento, 1500 posti a rischio, le sue casse svuotate dalla precedente amministrazione. Aveva 17 anni, difendeva la sorella dell'ex fidanzato, lui l'ha uccisa a coltellate e ferita la sorella, 101esima vittima della violenza di un uomo dall'inizio dell'anno. Sei ancora a casa? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Urban Forum. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia. Cala. La cruda verità, le zanzare di casa mia. Chi c'era a questo famoso incontro e impazza ormai il nuovo ritornello Renzi e il Cayman, il Caimano dalle isole Cayman? C'era anche un finanziere come Guido Roberto Vitale che non ha mai espresso simpatie per Renzi, e però adesso sentiamo Renzi, uno di sinistra che non legge Marx. Renzi parla come una persona di sinistra moderna, civile, che non demonizza il capitalismo e che non ha letto Marx. Sedi alle Cayman, niente di male. Passioni e vanità. Secondo lei si può difendere i diritti dei lavoratori, si può difendere il diritto alla salute facendo parte, lavorando per un fondo speculativo? Cioè, assolutamente sì. La sua società è stata alle Cayman, cioè una persona che non paga nemmeno le tasse in Italia che decide di fare il consulente di una persona che si candida a governare questo paese. Io non ci vedo nulla di male, viviamo in un mondo multipolare. Ovviamente la domanda era piena di luoghi comuni assolutamente non veritieri, eh? Polemica ridicola questa sulle Cayman, ridicola. Capisco che le Cayman evochino i paradisi fiscali, ma in questo caso non c'è nulla di non trasparente in questa società che finanzia Renzi. Tu nella tua attenzione, passando tutta la giornata a leggere i quotidiani, avrai letto sicuramente l'Unità oggi. Sì. Ed è singolare il fatto che l'Unità l'abbia, perché è il giornale del Partito Democratico, se non altro vicino al partito, non è l'organo ufficiale, ma altro è vicino al Partito Democratico. Ma è la linea, è la linea di Bersani, cioè non è l'organo di Bersani, non l'organo del Partito Democratico, è l'organo di Bersani. È singolare che abbia sparato questa notizia. Ma non è singolare, fa la guerra contro Renzi più o meno, cioè è normale, cioè fa battaglia politica contro Renzi. Sono due partiti diversi, cioè anche questa cosa qui ha messo in evidenza che sono due partiti diversi. Le osservazioni, le analisi politiche di Parenzo alle 19:23. Lorenzo dalla provincia di Milano. Vabbè, adesso ti passo un giapponese. 19:23, Lorenzo dalla provincia di Milano. Sì, pronto? Dica. Sì, buonasera, volevo invitare tutti quanti domani e dopodomani ad andare a votare gazebo, a firmare gazebo della Lega. Scusi un attimo Lorenzo, ma questa non è mica Radio Padania, vado a fare gli appelli a Radio Padania, a me che me ne frega dei gazebo della Lega, detto con tutto rispetto. Ma lei non si vergogna a rispondermi così? No, ma lei non si vergogna a intervenire per fare propaganda dicendo di andare a votare per i gazebo? Lei non è una radio pubblica. No, a parte che non è una radio pubblica, ma anche se fosse una radio pubblica, questo non le darebbe il diritto di fare appello e andare ai gazebo della Lega, cioè abbia pazienza Lorenzo. Ma si vergogna, non è giusto fare l'appello e andare a votare Renzi alle primarie, giusto? Ma quello che ci non ho fatto nessun appello, io ho detto che vado io a votare. Ma si vergogni lei, no io, si vergogni lei. Ma allora che cosa si dovrebbe fare domenica? Non ho capito. Andare tutti quanti a firmare il gazebo della Lega. E perché? E perché uno dovrebbe perché andare? Per decidere assieme il futuro della Lombardia. Sì. Per prendere il 75% delle tasse in Lombardia. Sì. Sì. E per fare un referendum sull'euro. Ha recitato la cosa, ha recitato il volantino. Ma è lei che recita, lei è un pagliaccio, no io. Ma perché uno dovrebbe intervenire per fare un appello ad andare a votare ai gazebo della Lega? Non mi spieghi. Come perché? Allora che cosa? Non per fare appelli, Lorenzo, per esprimere un'opinione, per insultarmi, per dire un'altra cosa, non per fare gli appelli. Ma lei è arrogante in questo Ma io caso. Non sono arrogante, è lei che vuole imporre. Ma che insulto, ma come faccia che finita. Insulto? Ma quale insulto? Ma non sto insultando nessuno. Ma si vergogna, ma vada via, ciao. Ma poi le primarie di cosa? Scusi, le primarie di che? Non ho capito le primarie di che cos'erano. Giacomo da Roma. Cruciani, buonasera. Buonasera, senta, dica. Lei fa sempre, diciamo, propaganda, ma in senso buono del termine. Ma io non faccio propaganda, la fa lei propaganda forse, non io. No, può darsi. Forse ho detto, non io. Lei è favorevole alle nozze gay. Sì, sono favorevole, allora, ma non faccio propaganda, cioè esprimo la mia opinione. Nulla questo, anzi, allora? Pure io. Però quando lei riceve in studio, al telefono, i suoi ospiti, faccia presente che nel mondo gay le associazioni vivono, tranne due o tre locali, io parlo qui di Roma, tranne due o tre locali, sono tutte associazioni private in cui si entra con una tessera. E allora? Perché sono associazioni private in cui non si può entrare liberamente, perché dentro ci sono lupanari, altro che... Dentro ci sono, scusi? Ci sono lupanari di ogni tipo. Lupanari, cioè ci sono luoghi dove ci si apparta? No, sono luoghi, proprio quei luoghi sono luoghi. Un attimo solo, sessuale. Allora lei è a favore del matrimonio, e le associazioni. Ma che c'entra questo? Sono proprietari. Pronto? Di questi pronto? Sì, pronto? Sì. Buonasera, signora Ferro? Sì. Salve, buonasera. Radio 24, la disturbiamo? No, assolutamente. Come buonasera. Sta? Come sta? Bene, bene, grazie. Le posso presentare il signor Parenzo? Sì, certo, volentieri. Lo conosce lei il signor Parenzo? No. Parenzo? Io al mio fianco per una persona veramente importante che vorrei passarvi solo per un saluto rapidissimo, che tra l'altro è anche un consigliere del Sole 24 Ore, un grande banchiere, un sostenitore, non lo so se si può dire, di Matteo Renzi. E chi è? Facci il nome. Ma chi è? Ma è lo scoop che ti ha fatto questa sera? È D'Urso, il grandissimo D'Urso. Beh, il grande banchiere italiano. Siamo al top. E ti passo per un saluto in esclusiva alla Zanzara. Ecco, vi tengo io il telefono così prego. Complimenti, siete bravissimi. Signor D'Urso, ma lei appoggia Renzi sul serio? Appoggio Renzi, certo che appoggio Renzi, mi presento, mi iscrivo alle primarie, no, tutto. Tutto già deciso. Poi dicono che non ha un'esperienza internazionale, io Renzi lo conobbi a New York la prima volta. Ah. Scusi, ma lei in questo momento, dottor D'Urso, in questo momento lei che cos'è? È al Parlamento per caso? No, ex senatore del PDL, rottamato, no? Rottamato. Del PDL, giusto? No, io ero per un gruppo molto selettivo che si chiamava Rinnovamento Italiano. Ah, ma quello di chi era? Di Dini? Di Dini, di Dini, sottosegretario al commercio estero. Sottosegretario? Adesso è un buon colpo perché salgo sul taxi mio e mi prendo il telefonino di Parenzo. Beh, siamo al top. Comunque, lei, grande finanziere, come si può dire? Sì, investment banker. Investment banker internazionale. Esatto, lei appoggia Matteo Renzi, diciamola tutta. Assolutamente. Ma ci ha parlato? No, non ci ho parlato, ma gli ho mandato una volta un messaggino, una volta mi ha chiesto una cosa, poi forse l'avrà saputo da Manes, dagli amici in comune, immagino. Sì. Senta una cosa, ma ha sentito oggi questa polemica sulle isole Cayman? Perché pare che lui, anzi no, è sicuro, riceva dei soldi da una società tutto trasparente per la campagna elettorale che ha sede alle Cayman e lo attaccano soprattutto anche all'interno del suo partito. Bersani ha detto che non si possono ricevere consigli da chi ha sede alle Cayman, delle cose assurde. Lei che dice? No, non ne so niente, ma insomma non c'è nulla di nulla. Bisogna vedere se è nella regola ricevere finanziamenti esteri oppure la società delle Cayman è controllata da quello, ma non so che dirle, ma non mi risulta. Comunque non è uno scandalo, non è uno scandalo prendere finanziamenti da società, naturalmente purché tutto sia trasparente, anche se hanno sede alle Cayman. Esatto. Va bene, comunque grande endorsement, grazie, mi passi Parenzo, grande endorsement di D'Urso a Renzi. Beh, insomma, siamo al top qui, Beh, mi hai rimesso. Aspetta, apro la porta del taxi a D'Urso, voglio aprirla io. Dare il numero di telefono che lo chiamiamo un'altra volta. Che meglio, aspetta che porta, per cortesia, massima attenzione con D'Urso, prego D'Urso, faccia che le apra. Parli bene di noi a sole 24 ore, D'Urso, che sennò qua ci caccio. Grazie. Mi raccomando con D'Urso, pago io la corsa eventualmente, metta tutto in conto. Ma quello è milionario, ma che paghi? Che paghi la corsa? È milionario quello. Grazie. Eh? È milionario quello che paghi la corsa tu. Ma che milionario? Stai zitto. Ma sì, ma è un uomo ricchissimo. Ecco qua. Comunque con questa cosa che hai fatto, non ti arrabbi più. Ho cancellato tutto, guarda, non sono più arrabbiato, guarda. Mi fai ogni tanto mi fai arrabbiare, però dopo ritrovo subito il sorriso. Io la combatto da ore. Punge e poi fugge da me. E cerca il posto ancora a casa, e certo che siamo ancora qui, assolutamente sì. La Minetti ieri sera qui alla Zanzara dice che al momento non farà un film con Tinto Brass. Ormai non mi sconvolge più niente, non mi sciocca più nulla. Ma lo faresti un film con Tinto Brass? No, ma dai, ma ne mi fai? Ma no, vabbè, con tutto il rispetto per Tinto Brass, cioè nel senso, non è che certo. Assolutamente ci mancherebbe non altro. Lo faresti però? No, al momento no. Basta politica? Forse no. Senti, ma basta con la politica allora dopo questa firma? No, ma cosa c'entra? No, assolutamente. Sono due cose nella maniera più assoluta scollegate. Poi si è nascosta per me. Intanto abbiamo appreso che il banchiere Mario D'Urso, ex senatore, uomo d'affari, uomo di salotti, eccetera, eccetera, appoggerà Matteo Renzi. È intercettato da David Parenzo in un taxi. Ma spiegami questa cosa del taxi, scusa, David. Dall'ottimo Parenzo. Sì, va bene, dall'ottimo Parenzo. Ma cioè, siete capitati nello stesso taxi? Non ho capito bene. No, eravamo in fila, l'ho visto. E, insomma, era tra l'altro vestito in maniera elegantissima. Aveva un giubbottino K-Way marcato Itasca. Tu sai cos'è l'Itasca? Sì. Ecco, quindi questo è importante. Poi avevo un paio di calzoni in velluto rossi meravigliosi, sì. Delle scarpe molto sportive, degli occhiali neri, insomma era in grandissima forma. Io ascolto sempre la Zanzara, detto questa R nobiliare, Cruciani è un cretino, parlerò adesso col direttore, comunque lei è bravo, così ho detto. Ma scusa un attimo, ma ti sei ammosciato improvvisamente. È con noi Wanda Ferra, adesso ti faccio, ti rimetto su. È piaciuta però l'intervista con D'Urso. Presidente della provincia di Catanzaro, però la dobbiamo un po' bastonare noi, signora Ferra. Lei ha nominato il suo compagno direttore generale della provincia, ma com'è possibile questa storia? Io sono un po' all'antica, preferirei più che compagno fidanzato. Vabbè, fidanzato, quello che è. No, non so se mi deve bastonare, considerato ecco le motivazioni per le quali ovviamente al di là della legittimità di un atto, trattandosi ovviamente di una nomina... Ma nessuno dice che è illegittimo l'atto. Mi consente questa nomina un risparmio di ben 170.000 euro. In che senso, scusi? nel senso che è un incarico considerato che il dirigente più anziano in termini di servizio dell'ente provincia, quindi che c'era da prima che io fossi presidente, assumere ad interim questo incarico a costo zero, rimanendo con lo stipendio che ha avuto nei 13 anni precedenti. Sì, ma ho capito, ma al di là di questo, il suo fidanzato, cioè è comunque una cosa inopportuna, il suo, quello, chiamiamolo come vogliamo, cioè sì, nel senso, guardi, sull'opportunità è un altro ragionamento. Io questo, anche io di questo parlo, fermo restando che sarebbe un atteggiamento totalmente ipocrita pensare che un incarico fiduciario, o che sia il fidanzato o che sia comunque un altro professionista, soprattutto parliamo di 4 mesi alla scadenza del mandato, dove non mi andava comunque di far pensare alla gente che prendessi, oltre al discorso del risparmio, che è ovviamente per me è necessario. Però lui guadagnerà di più. No, no, no, le sto dicendo che guadagnerei 0 euro in più, e quella la confusione che è stata fatta. Vabbè, 0 euro in più, comunque, come dire, diventa direttore generale della provincia, cioè ci sarà un piccolo scatto da questo punto di vista. No, no, no, no, neanche a livello pensionistico. Sì, però ho capito, al di là di questo va benissimo, adesso io non discuto sul fatto che ci saranno sicuramente le norme che lo consentono, eccetera, però lei, signora Ferro, presidente della provincia di Catanzaro, resta il punto fondamentale, cioè ha nominato come suo braccio destro il suo fidanzato. Ora questo qua... generale intanto deve essere una nomina fiduciaria. E vabbè, ho capito, ma non è che tutti nominano i fidanzati. È presente da 13 anni, prima che io fossi presidente dell'ente. Ma non si fa, non si fa. No, io ritengo che insomma può essere opinabile il momento in cui si nomina una persona, ecco, che in qualche modo è il compagno e che arriva oggi, ma fermo restando ovviamente che è stato un atto trasparente di giunta, ma soprattutto, ripeto, nella ampia legittimità, ma con uno scopo ovviamente che significa soltanto andare incontro alle risposte. Lei l'ha nominato perché ha fiducia e perché è il suo fidanzato, non perché si risparmia, c'erano altri modi per risparmiare, cioè lo dica, non è uno scandalo nominare un fidanzato? No, no, no, guardi, non è non è che fosse l'unica, ne sono convinto, è uno scandalo quando invece si nominano dando ovviamente delle indennità aggiuntive, quindi non un risparmio. Scusi, ma da quanto tempo siete fidanzati, signora Ferro? 22 anni. 22 anni? Sì, sì, sì. E perché non vi siete sposati ancora? E non ci siamo sposati perché per me ci sono delle motivazioni che mi legano un po' a un fatto legato a quello che io considero il matrimonio e che oggi non ci consentono di poterlo affrontare per come io lo vorrei affrontare. E che è successo? Vabbè, no, mi voglio fare gli affari vostri. Non entriamo nel personale, se no la zanzara diventa fastidiosa. Vabbè, ma sa. Parenzo, a te ti colpisce il fatto che si possa nominare come direttore generale di una provincia il proprio fidanzato? Cioè tu la nomineresti la tua fidanzata, che ne so, come tua segretaria, adesso faccio un esempio che non è calzante, certo. La nomineresti? Ma assolutamente no, mi pare una vergogna, un immondezzaio puro. Addirittura, un immondezzaio, ha capito? Puro immondezzaio. Cioè non si nomina il fidanzato direttore generale di una provincia? Guardi, io penso che in un momento nell'era dei Batman, dove veramente i soldi sono stati erosi per champagne, sì, ma lasci perdere i Batman, che per missioni varie ed eventuali, per me il risparmio viene prima di ogni altra cosa. Credo che questo, ma non era l'unico modo per risparmiare, questo qua, non ci faccia passare. Guardi, questa era cosa, era un modo per tutelare anche l'ente per un eventuale in che senso? Le spiego perché nel momento in cui qualcuno svolge delle mansioni superiori, eventualmente, però non ce la metta sul piano tecnico, non ci capiamo niente. Piano tecnico, però il punto è un altro, lei come si difende? Come si difende dal fatto che le dicono che ha nominato il suo fidanzato, con cui si ritrova, immagino, la sera a casa, con cui si sveglia, con cui passa delle ore durante la giornata, come direttore generale della provincia? Come la spiega questa cosa? Guardi, io la spiego solo con un semplice fatto, le ripeto, col fatto che sia quello che col curriculum presente come tu rispetto a tutti gli altri dirigenti della provincia è quello che ha preferito il fidanzato a un'altra persona. No, ho preferito chi secondo me mi tutelava di più, nel senso ovviamente di fiducia, operosità e di fiducia e di risposte ai cittadini, chi rinunciava e chi un domani non avrebbe fatto, come si è sempre fatto nella prima e nella seconda repubblica, atti per risarcimenti danni. Vabbè, comunque adesso non lo faccia passare però come atto così quasi eroico di risparmio, no, eccetera. No, guardi, se c'è stata una leggerezza, probabilmente può essere stata soltanto una leggerezza del momento dell'antipolitica, che ovviamente... Ma non è la leggerezza, è il fidanzato nominato direttore generale del comune, per carità, io non lei ci sta dicendo che non piglia un euro in più e va benissimo, io credo però... Che sia sia indegno quello che spesso la politica fa, lo dico ovviamente non parlando... Ma lei capisce che è il suo fidanzato, cioè lei ha, tra virgolette, promosso, nominato direttore generale, il suo fidanzato. Ma cioè, promosso a me... a cosa? Chiedo scusa, un duplice. Vabbè, direttore generale, con lo stesso stipendio. Ma direttore generale è comunque una figura importante in una provincia. È una figura importante che sicuramente chi vuole fare clientele, vabbè. Non è detto che... Ma io non ho detto che bisogna fare clientele. No, volevo precisare, avrò qualche amico all'esterno con un curriculum professionale che certamente poi avrebbe tramutato non tanto nel moltiplicare le idee ma i consensi se lo avessi nominato. Sì, vabbè, però signor Ferro, scusi. A 4 mesi dalle elezioni le garantisco, ma però certamente... non era il caso, non era il caso, perché era il suo fidanzato, lei doveva tenerlo fuori da tutte le nomine, non va bene, comunque. Guardi, vabbè. Io non ritengo che sia così, perché sinceramente insomma ognuno di noi fa il proprio mestiere. Io ritengo che quando le cose si fanno in piena trasparenza e soprattutto... Si può nominare anche il fidanzato, va benissimo. Sì, senza ipocrisie. Senza ipocrisie, benissimo. La ringrazio molto. La ringrazio molto. Grazie a lei, buonasera. 19.44, Parenzo, hai capito? L'immondezzaio che dici tu. Ma che la ringrazi? Ma che gli è? E che devo ringraziare? Che devo fare? La devo mandare a quel paese, scusa. Ma digli anche tu che ti sei vergognato. Chi c'era? No, non mi vergogno. È una cosa assurda. Come si fa a pensare solo a pensare di nominare il proprio fidanzato direttore generale della provincia? Dice che non ha speso una lira in più, un euro in più, poi controlleremo. Giacomo da Roma. Giacomo era con noi già da prima, no? Sì, allora Cruciali, se lei avesse un figlio, no? E penso che lei abbia un figlio. Sì, ho una figlia, sì, allora? Vabbè, è uguale, metta che un figlio ha 18 anni, si scopre gay da qualche anno, sì. Fa della cosiddetta e mitizzata comunità gay. Sì. Deve aspettare 18 anni perché non lo fanno entrare tranne qualche rarissimo locale, almeno io parlo qui di Roma. Vabbè, ma allora dove vuole arrivare? Mi dice dove vuole arrivare. No, voglio arrivare. No, beh, ma dove voglio arrivare? La facilità dell'occasione erotica della cosiddetta comunità gay. Ma per tutti è la facilità erotica? Ma lei è completamente pazzo, Giacomo? È completamente pazzo? No, e certo, io sono pazzo perché... Ma allora scusi, ora perché lei vuole il matrimonio? Ma lasci perdere perché voglio il matrimonio. Lei mi sta dicendo che per i gay è più facile trovare occasione di sesso in un locale, ma si rende conto di quello che dice o no? Sì, certo. Ecco, se lei si rende conto di quello che dice, si accorge che è tecnicamente pazzo. Questo è il problema. Vabbè. Beh, abbia pazienza, perché dovrebbe. Tanto, lei sta, tanto guardi, lei sta dicendo che la comunità gay è più dissoluta, diciamo, è più tende più al sesso rispetto a quelli eterosessuali. Ma perché tende di più? Ma non lo so, dice lei. Non c'è educazione sentimentale. Sì, mandiamo un'ambulanzina, su. Mandiamo un'ambulanzina, su. Una piccola ambulanzina, Due. Due, dici? No, una basta. Perché mi sanno, se lei avesse un figlio, che i locali fanno le orgie party, si chiamano Il Diavolo Dentro, Skyline, sono saune, dark room. Lei sarebbe tranquillo? Ma assolutamente perché sì, viva le dark room. Non vogliono figli gay, per questo motivo. Viva le dark room tutta la vita, guarda. Vi prendete l'AIDS, caro Cruciani. Ma che c'entra l'AIDS, Giacomo? Ma lei è completamente fuori di testa. No. Allora, il matrimonio presuppone una castità, stabilità. Parenzo, intervieni tu, ti prego, intervieni tu. Una volontà degli effetti, di volere gli effetti, quello che nel diritto canonico si chiama bonum consortium vitae. Sì. Capisce, caro Cruciani? Sì, ho capito. Si chiama demens. Parenzo dice, lei si chiama demens. Demens. Senta, voi la buttate in cacciara. Ma non la stiamo buttando in cacciara, lei ci sta dicendo che gli Parenzo, che è un velato, perché notoriamente è un velato. Che cos'è un velato cosa? Un velato. Un gay velato. Sì, sicuramente. Cioè, Giacomo, guardi, lei è talmente divertente che resti qui un attimo. Adesso abbiamo io rimango, ma voi vedete, lei il matrimonio lo deride. Quanti ma chi deride? Io non derido nulla. Giacomo, si fermi un attimo, si fermi un attimo. Loro hanno la proprietà delle case chiuse. La proprietà delle case chiuse, ma da dove spunta questo Parenzo? L'hai chiamato tu? La proprietà delle case chiuse, guadagnano milioni di euro l'anno e se io le porto tutti i documenti. Ho tutti i documenti, certo. Sì, ma guardi che io sono un collega di Taormina, non pensi che io un non collega sia di Taormina. Beh, allora appunto stiamo messi bene. Grazie Giacomo, resti lì se vuole. 800 24 00 24, ma qui impazza la questione Cayman, cari ascoltatori, le Cayman, il Partito Democratico, esponenti del Partito Democratico, il segretario in testa, il signor Bersani, ma anche l'Unità, accusano Renzi di prendere quattrini come finanziamento da un hedge fund, si chiama così. così da un fondo con sede alle Cayman, e dunque le Cayman evocano il paradiso fiscale, soldi sporchi. C'è un po' di demonizzazione, no, un po', tanta demonizzazione. Il professor Massimo Cacciari è con noi, buonasera. Buonasera. Allora, che ne pensa di quest'ultima polemica, Cacciari? Ma niente, siamo in campagna elettorale per le primarie ed è inevitabile che si cerchino tutte le pecche possibili e immaginabili dall'avversario. Non ho la più pallida idea, francamente non mi interessa nulla. Certo, per fare le primarie anche Renzi avrà bisogno di qualche quattrino. Ma è un errore farseli dare da qualcuno che ha... No, l'errore sta nel sistema italiano, per cui non è obbligatorio che ogni lira di finanziamento venga chiaramente denunciato e non si sappia per nome e cognome chi è il finanziatore. Questo è il grande errore. Beh, lui però dice di volerlo fare. Sistema. Negli Stati Uniti non esiste che uno dia soldi a un politico e poi il suo nome rimanga, come dire, segretato. No, ma in questo caso Renzi dice di voler rendere trasparente tutto, finanziatori eccetera. Che lo venda e finisce lì. Senta, ma non sembra un po' una lotta ormai quasi tra D'Alema e Renzi più che tra Bersani e Renzi? Cioè, D'Alema sembra quasi... D'Alema è quello che ha lanciato Bersani ed è il suo massimo sponsor. Quindi è evidente che ora lo scontro fondamentale non sia tanto tra Bersani e Renzi quanto tra D'Alema e Renzi, perché è D'Alema il magna pars di questo Partito Democratico. Ma sembra quasi che non si vuole arrendere, oppure è rimasto davvero disturbato da quest'idea della rottamazione, da questa insistenza di Renzi su D'Alema stesso, eccetera, eccetera. C'è una differenza assolutamente antropologica tra D'Alema e Renzi, quindi è evidente che poi si detestino. Dopodiché D'Alema è lungi dall'essere morto, se Bersani vincerà finirà col fare il ministro. Lei dice no? Sì. Ah, finirà per fare il ministro? Addirittura. Dico. Vuole andare in Europa? Pare voglia andare in Europa però a fare il commissario o cose di... Sì, va bene, oppure un grande ruolo europeo. Certamente D'Alema non va in pensione. Ma lei ha deciso se va a votare alle primarie allora? Ogni volta gli chiediamo la stessa cosa. Non vado alle primarie perché non ho colto ancora quali siano i programmi dell'uno e dell'altro e tantomeno ancora le politiche di alleanza che intendono fare, visto che saranno costretti ad allearsi a qualcuno per governare, no? Vabbè, Bersani ha deciso, cioè si presenta insieme a Sella e ai socialisti non basterà appunto. Ma allora a me interessa non tanto quello che è stato deciso al momento, che era in qualche modo obbligato. Ma la prospettiva successiva è tutto ruota di nuovo intorno a Monti, cioè perché se vogliono costruire un'alleanza per cui continua l'esperienza Monti in una forma o nell'altra, oppure vogliono voltare pagina radicalmente, e su questo né l'uno né l'altro hanno detto dicono una parola chiara. Parenzo, ci sei o sei morto? Che è successo? Certo che ci sono, ma ascoltavo in religioso silenzio le analisi del professore. Religioso silenzio, non esagerare. La cosa che mi interessa capire è se ha fatto bene, secondo Cacciari, D'Alema a mollare così la spugna, a farsi rottamare così da questo giovanotto. Non ha mollato nulla, Davide. Non ha mollato nulla, non hai capito niente. Non ha mollato nulla né si è fatto rottamare, ha capito perché è una persona intelligente, dell'unico vero politico all'interno del Partito Democratico, piaccia o no, ha capito che la partita decisiva sarà dopo il voto e sarà appunto sulla costituzione di un governo che sia in continuità con l'esperienza Monti oppure totalmente... Però scusi un attimo, se dovesse lei scegliere tra due uomini politici davanti a lei, no? Renzi da una parte e D'Alema dall'altra, lei chi sceglierebbe? Ma D'Alema? No, non sceglierei D'Alema perché D'Alema ha commesso più cappelle di Bertoldo e suo figlio e Cacasseno messi insieme negli ultimi 20 anni, quindi non sceglierei D'Alema, ma certamente l'affidabilità di Renzi è tutta in mente dei. Senta, ma perché non si candida in Lombardia dato che c'è un casino così? Magari vince pure, rischierebbe pure di vincere Cacciari in Lombardia, o no? Ci faccia un pensierino, Cacciari. Cacciari non si cambia più in nessun luogo, come ha detto ripetuto, e la sua è una parola fidata. In Lombardia la situazione davvero è... Ma questi litigano ancora sulla data delle elezioni, si rende conto? No, ma veda, in Lombardia è la situazione nazionale all'ennesima potenza, perché in Lombardia c'è il tracollo di PDL e di Lega, e dall'altra parte... non hai assolutamente un'offerta politica che possa sostituire questi partiti tracollati. Quindi in Lombardia, che è diciamo il 30% del PIL nazionale, non hai rappresentanza politica. Se questa non è una situazione drammatica, non so quale sia. Vabbè, lei non si vuole candidare, abbiamo capito. Maroni lo vede bene, oppure... centro-sinistra. Io credo che se vogliono ritornare con un'alleanza con la Lega, devono andare con Maroni o forse con la Gelmini. Albertini o no? No, ma che Albertini? Perché? Ma per carità. Panna montata, minestra rifatta, sta rifatta, Albertini non sarà mai candidato. O è Maroni, panna montata, dice lei. Con la Lega oppure forse il PDL Alfano potrebbe puntare sulla Gelmini. Senta una cosa, una curiosità prima di chiudere, ma la nomina al maxi della Melandri, come l'ha vista? Una roba, molti dicono, vabbè, esce dal Parlamento, si fa nominare in un museo. C'erano altre competenze. Però la Melandri ha fatto il ministro della... proprio un ex parlamentare, scelta... Certo, non ha forse un curriculum scientifico, accademico, eccetera, eccetera, però è una persona che certamente da una vita ormai si interessa di quelle cose, in quel settore, opera in quel settore, quindi non vedo... Non è uno scandalo, francamente, no. Ancora a casa, la Carfagna dice di avere uno spirito diverso da quello della Minetti: studio e abnegazione. Credo che la mia breve ma intensa esperienza politica dimostri che io abbia informato la mia attività e il mio impegno politico a tutt'altri criteri, a quello cioè dello studio, dell'impegno, del sacrificio, della dedizione, dello spirito di abnegazione. Quindi Nicola Minetti si è sbagliata a dire come... La penso in modo diverso. La Melandri: non sento il bisogno di essere ricandidata. Poi oggi ha chiamato fine e si è dimessa. Non sento il bisogno di essere ricandidata con questa legge. Con questa legge. È mio bellum. E devo dire la verità, anche addio a una legge con le preferenze così come sta venendo fuori. Cioè, io ho fatto molte legislature. E non in Parlamento dal 94, lo ricordiamo? E non sento il bisogno di essere... ricandidata con queste ipotesi di legge elettorale che sono sul campo. Mamma mia, che tristezza, guarda. Sì, effettivamente. Che tristezza. Siccome ci sono le ipotesi di legge elettorale, non sento il bisogno di essere ricandidata. Di semplicemente che non vuoi presentare la deroga, che non te l'avrebbero data, che sono tante legislature. Poi addirittura la Melandri aveva detto che si sarebbe impegnata per non so quale fondazione all'estero di beneficenza. Subito dopo ha accettato l'incarico al Maxi, ma va benissimo, per carità, come ha detto Cacciari, una persona che può essere anche competente. Chissà perché si è pescato tra gli ex parlamentari e non in altri ambiti. Grillo, Monti e il sesso. Quando Monti è arrivato e ha sostituito l'accappatoio selvaggio, lo chitonano, no? È chiaro che subito ha fatto un effetto straordinario, perché arriva uno dopo Berlusconi, uno che l'ultimo rapporto sessuale l'ha fatto nel luglio del 54, alle 9 del mattino, ha detto la moglie, ha fatto il contrasto, mentre quello là era... Giovanni da Roma, 800 24 00 24. Giovanni. Oh, ciao Peppe, mi senti? Ma come Peppe, chi è? Sono Sede, Luciato, ho scritto pure un tweet su Giovanni, innanzi, primo, sì, mi dia del lei, sì. Secondo, dica quello che deve dire. Ah, vabbè, no, erano tre giorni che sì. Volevo intervenire stamattina, visto sì. Sul caso Tobacci, che è vergognoso, che il caso? TG3. Il caso? Sul caso Tobacci, che ancora come si TG3. Chiama, scusi? Tabacci, scusi. Tabacci, sì. Allora? Tabacci, allora? Che ancora va su TG3 a dire che si offre, dopo avere tre cariche... E si presta se no, gli due cariche, due cariche. Se prende questa sono tre, sono altri. Ma quale carica? Si propone come si vuole candidare alle primarie del centro-sinistra e anche alle primarie del centro-sinistra in Lombardia. Ci arriva un altro stipendio che toglie. Ma quale stipendio? Senta Giovanni, mi ha quasi scocciato. O parla di una cosa seria oppure mi ha scocciato. No, ecco, visto il discorso della Sant'Anchè, azzeriamo e rottamiamo, ha risposto bene anche Donna Assunta. A Roma come vediamo, io parlo di Roma. Gaetano da Roma, buonasera, grazie Giovanni. Gaetano da Roma. Buonasera Cruciani. Dica. Ho visto che lei nelle ultime settimane in qualche modo ha dichiarato ufficialmente appoggia Renzi. Ma io non appoggio, vado a votare alle primarie del Partito Democratico e voterò per Renzi. Poi subito dopo non è che ho scritto qui, non è che ho scritto qui. Io non voglio rottamare nessuno perché non me ne frega niente. No, Renzi dicevo rappresenta. Sì, Renzi sì, vuole rottamare qualcuno. Vuole rottamare il vecchio quando lui è vecchio in tutto. Sì. È vecchio perché fa politica da 20 anni, la fa avendo attraversato l'arco costituzionale, diciamo la vecchia DC, la Margherita, ha ricoperto una serie di cariche nei vecchi partiti . E quindi è stato vecchio in questo, quindi utilizza la politica per fare carriera, perché lui la vede qui, perché è stato nominato, quindi nella vita non ha fatto tante cose per poter essere così preparato da ricoprire un ruolo così importante come quello di primo ministro. È stato nominato a 27 anni dirigente d'azienda dal padre che era titolare di una società di marketing. Adesso ci deve rifare tutta la storia di Renzi in negativo? No, sta facendo perché siccome ci vuole candidare sta ricordando una serie di cose in negativo di Renzi, va benissimo. No, allora, ma le sto ricordando. Sì, le sto ricordando, questo è il suo parere. Bisogna rappresentare il merito, la competenza e bisogna proporsi con questi schemi, non essere vecchi, utilizzare la politica nei vecchi modi. Utilizzare anche uno schema nel proporre una campagna elettorale vecchia che copia altre campagne elettorali e lui rappresenta il vecchio in sé, vuole rottamare i vecchi, ma forse rottamiamo Renzi che è vecchio. Benissimo, giovane, lei va a votare alla primaria del Partito Democratico? Sì. E chi vota? Voterò sicuramente per Bersani. Benissimo, Enrico da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, volevo fare un richiamo a tutti i miei colleghi che lavorano in banche a Milano. Sì. Che tutti si stanno gettando in politica. Ma chi si sta gettando in politica? Beh, in appoggio a vari politici. Mi sembra normale, se è tutto trasparente mi sembra normale, non mi sembra una cosa strana. Non è che i banchieri o chi si occupa di finanze è lontano dalla vita e dalla politica. Assolutamente se qualcuno appoggia Renzi non mi sembra uno scandalo. Certo, ieri sera però vedendo gli entranti e uno di questi dire che la crisi attuale non è... Ripeto, io lavoro per una banca americana, quindi allora? Parlo... La crisi attuale non è da imputarsi alle banche, grandissimo errore. Vabbè, adesso non entriamo in questo dettaglio, però Enrico, perché ci ha chiamato? No, semplicemente per fare un appello a chi? Ai miei colleghi che lavorano in banche, che si vogliono mettere a far politica, di fare attenzione che è un lavoro diverso. In più, ma noi che ce ne frega se lei fa un appello ai suoi colleghi che lavorano nelle banche e che vogliono buttarsi in politica? Io non so né di chi sta parlando, cioè né cosa significa questo appello a quelli che vogliono buttarsi in politica ma lavorano nella finanza. Ma di che parliamo? Non parliamo di nulla, Enrico, non stiamo parlando, lei sta parlando del niente, perché noi non conosciamo nomi, cognomi, soggetto, predicato, complemento oggetto, non ho capito niente. Ieri sera l'incontro. Questa è un'altra cosa, lei ha detto, ieri sera c'è stato un incontro tra Renzi e alcuni esponenti del mondo della finanza che hanno... E allora? Volevo commentare quello, volevo semplicemente dire che forse Bersani, più che focalizzarsi sul fatto che Serra sia posizionato Cayman, forse dovrà posizionare sul fatto che Serra gestisce una famiglia di fondi hedge, e farsi dire da un gestore di fondi hedge cosa fare per il bene dell'Italia, benché lui italiano e bravissimo. Ma non è che questo quasi non è che l'unico consigliere occulto di Renzi per la grande strategia economica sia il signor Serra, il capo di questo fondo? Non è così, Enrico, lo non so. È così. Lo so. E allora? No, allora era anche un commento su quello che diceva Bersani. Vabbè. Di quelli che diranno a lui, a Caiman o non Caiman. Probabilmente questo ha pochissima importanza perché è nella normativa. Mm. Forse è dubbioso il fatto. Nella normativa? Che... Quale normativa? Parenzo, ma aiutami tu, io non ce la faccio, guarda, non ce la faccio. Io non capisco il delirio, forse perché è l'ora dell'aperitivo, quindi la gente a quest'ora chiama. Sono signore, lavora nel mondo della finanza, dovrebbe essere anche una persona così, no? Ma non ho capito niente. Che cos'è nella normativa, Enrico? La normativa è il fatto che lui abbia una holding alle Cayman, non infrange nessuna legge. Ah, ecco, non infrange nessuna normativa, sì, certo. Quindi Bersani dicendo che alle Cayman o chi attacca perché si appoggia ai consigli di una Cayman è in errore. Questo l'ho detto io un'ora e mezza fa. Lei lavora nella finanza, mi chiama e mi dice la stessa cosa. Mi dia una cosa più originale, dato che lei ha più conoscenze di me. L'originalità è che io non mi affiderei se fossi italiano e non voterei uno che si fa consigliare anche per minima parte a una persona che si occupa di fondi. Vabbè, dunque lei dice una cosa prima contro Bersani e poi contro Renzi. Benissimo. Davide da Brescia, buonasera. Sì, salve, buonasera. Dica. Allora io volevo fare una domanda, chiedere cosa c'è di sbagliato nelle raccomandazioni, perché mi collega... Ma lei si riferisce alla vicenda di Catanzaro? Sì. Scusi un attimo, uno ha un fidanzato che è un dirigente già, no? Sì. È fidanzato da 22 anni, diventa presidente della provincia di Catanzaro, la signora Banda, non mi ricordo come, Banda Ferro. Dopodiché lo nomina, a un certo punto, dice lei, senza alcun esborso di denaro in più, lo nomina direttore generale della provincia. Secondo lei è normale? Esatto. Secondo lei è normale? Se io devo dare una carica importante e sono responsabile dell'incaricato, penso di... Lei lo ritiene una cosa normale? Beato lei che lo ritiene una cosa normale. Cioè, si può evitare, non credo che il signore in questione sia l'unico che può avere un incarico di questo tipo come direttore generale della provincia di Catanzaro. La cosa sbagliata in Italia è che nessuno è responsabile delle proprie azioni. Se tutti fossimo responsabili delle proprie azioni, le raccomandazioni non sarebbero una cosa sbagliata. Davide, il punto è che nessuno può ritenere una cosa normale il fatto che il presidente di una provincia nomini direttore generale il proprio fidanzato. Grazie, la fortuna di essere fidanzato alla persona che merita quel posto. Non lo nomini, ma non c'è una questione di merito. Ma non è una questione di merito, perché non è che stiamo parlando del Presidente della Repubblica. Allora già l'ha stato accusando che l'ha fatto per una questione economica. Ma no, economica non l'ho detto. Magari è anche capace il fidanzato. Ma sì, sicuramente, il problema è che non può essere. È come nell'azienda privata. Ma non lo devi nominare, non lo devi nominare comunque. Comunque non lo nomini, fosse anche il più bravo, non lo nomini. 20 a 10. Allora perché devo nominare un estraneo quando conosco un qualcuno? Perché è il tuo compagno, è il tuo fidanzato e non lo nomini direttore generale di quella provincia, perché sicuramente non sarà l'unico a poter avere quell'incarico. Ma lei lo manda a rottamare, parente. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Una muchachita baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Roberto, provincia di Cuneo, buonasera. Mi piace poco buonasera, quell'almirante. Perché ti piace poco quell'almirante? Mi piace proprio poco, guarda. Beh, perché poi, ti ha mandato a quel paese perché ti vuole rottamare. Ho scoperto una cosa. Che hai scoperto? Che è la moglie di Almirante. Beh, certo che la moglie di Giorgio Almirante. Ho scoperto questa notizia. Ma scusa, e perché facciamo parlare la moglie di Almirante? Perché Almirante che contributo ha dato a questo paese? Sono Almirante. Se non cominciare a insultare anche Almirante. Beh, come? Ma se non si può insultare neanche Almirante. Ma lo sai che Michaela Biancofiore, ma tu lo sai che ha firmato la difesa della razza? Non me ne frega nulla in questo momento. Allora, lo sai che la signora Biancofiore, Michaela Biancofiore, no? La grande passionaria pro berlusconiana, è andata da Renzi? Lo vogliono uccidere, insomma, veramente. È andata da Renzi in questo momento. C'è un tweet fantastico con una foto. È andata alla. Ma non sarà vero, dai. Ma come no? Alla convention di Renzi. Guarda, mi hanno mandato un tweet con la foto. Ma adesso fra poco la chiamiamo dopo. Dopo, più avanti. Sì. Roberto, allora. Buonasera, Cruciani. Dica. Trovo molto strano, sotto un certo profilo inquietante, il fatto che con tutto quello che sta succedendo a livello regionale. E i cittadini italiani non stiano facendo assolutamente nulla, diventando quindi, oltre che vittime, anche complici della più grossa associazione a delinquere che si sia mai vista sul pianeta. Lo trovo molto strano, perché il messaggio che stiamo dando, non ho capito. Strano che non sta succedendo niente, i sindacati hanno portato in piazza migliaia di persone per motivi a volte futili, banali. E qui abbiamo degli amministratori Cioè, cosa dovrebbe succedere secondo lei, scusi Roberto? Ma qualcosa dovrebbe succedere, abbiamo riempito le piazze e molti si sono vantati di averle riempite. Vabbè, lasci perdere adesso le piazze riempite, lei dice ci vorrebbe una ribellione, una rivolta contro questa montagna di denaro sprecato degli amministratori locali, finanziamento pubblico, eccetera, eccetera. Sì. Ma vede Cruciani, lei se mi permette, usando solo il termine denaro, sì, si svilisce un po' la situazione. Queste sono risorse che vengono tolte a chi ne ha bisogno. Sì, ma lo so perfettamente, Roberto. Cioè, questo è strano, io le dico, sono spessissimo all'estero per lavoro, una cosa del genere non verrebbe, non passerebbe. Vabbè, poi, così liscia, e quindi che caso, gli stiamo dicendo a questi perfetti delinquenti, continuate così perché a noi tutto sommato non frega niente, anzi, grazie, e quindi lo trovo strano. Va bene, grazie. Traffico, poi Claudio da Prato, Francesco da Bari, Roberto da Cuno, ma non abbiamo finito, mancano tre quarti d'ora ancora, grandi sorprese alla Zanzara, Parenzo. Che devo fare per tirarti su? Borghezio? No, sono molto sorpreso. No, Borghezio, adesso ti do Borghezio, dopo ti do Borghezio. Ti do Borghezio, che abbiamo ricordato in un grande show alla Zanzara, qui bisogna, ormai facciamo i CD, La Zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, che affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. Ti faccio rivivere momenti eccezionali qui alla Zanzara. Mi fai ritornare al top. Sai che stiamo ripetendo questa grande esclusiva di Mario D'Urso, che tu hai sottovalutato, il banchiere. No, non l'ho sottovalutato. D'Urso che appoggia Renzi, no, non l'ho sottovalutato. L'hai sottovalutato? Ma assolutamente. Ma io ho anche il cellulare, scrivitelo 335. Ma no, non lo dare adesso, non lo dare a tutti il numero di Mario D'Urso. No, forse è vero. Che mi ha guardato e mi ha detto, io sono anche del consiglio di amministrazione. Ah, dico, sì, come sta, Presidente? Allora, sentite in che modo? Mario D'Urso, amico mio, c'è l'endorsement di D'Urso, siamo ora coperti su tutta la linea. Senti Radio, ah, l'endorsement a noi, dice la Zanzara del signor D'Urso, ma noi non abbiamo bisogno di queste cose. Mandalo a ritrecine, proprio come si dice dalle mie parti, mandalo proprio a rotta di collo ogni volta, ma io ascolto sempre la Zanzara, mandalo. Vabbè, ho capito, ma Mario D'Urso in Confindustria non conta nulla, lo sai, no? Manda solo detto con tutto il rispetto al signor D'Urso. Guarda, ti devi vergognare di quello che stai dicendo. Se ci vogliono fare fuori, D'Urso non è che ci può difendere il signor D'Urso, detto con tutto il rispetto. Però, vergognati, perché stai dicendo delle cose molto brutte sul mio amico D'Urso, molto brutte. Allora, in questo modo Sgarbi presentava Carlo Giovanardi, il senatore Giovanardi, l'altro giorno alla Camera durante una conferenza stampa. Sentite Sgarbi. Il programma in televisione 4 contro 0. C'eravamo 4 a favore del circo e poi c'era una specie di deputata piccola e anche graziosa che era stata nominata da Berlusconi, quindi avrebbe dovuto almeno rispondere. Io so che Berlusconi ama i circhi. E però la sua deputata e le sue deputatesse fanno delle battaglie per conto loro, e allora ha sostenuto questa tesi filosofica, che il circo deve essere solo per uomini, quindi per esseri umani, perché noi abbiamo la volontà, mentre la volontà e la libertà, che è tipica dell'uomo, non hanno gli animali. Qui Sgarbi dice a Berlusconi piacciono i circhi, bisogna vedere quali circhi, naturalmente si potrebbe ironizzare, però in questo modo, sentite su Giovanardi. Per esempio quando lui dice che, lo dice ormai sommessamente perché l'hanno travolto, che non è normale che si sposi un uomo con un uomo, il moto spontaneo è pensare che ha ragione, dice però poi in fondo, ma poverini, dice Bossi, e cominciano a dire tutti poverini, cioè, se si vogliono sposare, cioè, naturalmente siccome il matrimonio naturalmente è un'inculata, a loro gli piace, cioè, sarà quello, non so. C'è qualcosa che non funziona, c'è una specie di stordimento del mondo per cui mai avrei pensato che dovremmo occupare di giraffe. Eccoci qui, il senatore Carlo Giovanardi è con noi, buonasera. Sì, buonasera. Come va? Bene, grande Sgarbi. Allora, grande Sgarbi ha detto tra l'altro una... Allora, Sgarbi ha detto l'altro giorno, anche se Giovanardi dice delle cose corrette, siccome dice Giovanardi sembrano sbagliate. Giovanardi, un po' è così o no? Così va il mondo. Lei si sente un po' da questo punto di vista discriminato? No, assolutamente no, Io... Senta, perché lei è passato... quello che penso, come fa tante volte Sgarbi. Perché lei è passato dalla questione della droga, dalla questione di cui si occupa ancora in maggio, dalla questione della droga, dalla questione della famiglia, dalla questione della, degli omosessuali, ad occuparsi di circhi? Di sono curioso, quando davanti al circo che volevano far chiudere Imola, 20 vegane, che sono fondamentaliste animaliste, mi hanno urlato assassino con le mani grondanti di sangue, e gli ho chiesto, ma perché sono un assassino? Metto, perché mangi il prosciutto di Modena, il parmigiano reggiano? Beh, effettivamente il perché, è un po' esagerato. So. Secondo loro, ma loro erano lì a intimidire e insultare quelli del circo. E anche le mamme e i bambini che vanno al circo in tutta Italia, perché secondo loro non solo non si può e non si deve mangiare carne. Ma perché le danno dell'assassino i signori vegani? Tu sai cosa sono i vegani, Parenzo? No, i vegani danno dell'assassino. Sì, sono quei vegetariani che sono ultras del vegetarianesimo, cioè non solo non mangiano nessun tipo di carne e di pesce, ma anche le uova, ad esempio, oppure anche tutti i derivati, quindi il parmigiano reggiano, siccome ha il caglio animale. Cioè, per lei sono, scusi Giovanni, per lei sono degli estremisti, sono dei pazzi. Lei, io posso condividere come Emiliano quelli che lottano per chiudere tutti gli allevamenti di maiali, tutti gli allevamenti di galline, mi dica la verità, di parmigiano reggiano, sono pazzi questi qua. Il prosciutto, evidentemente non posso essere d'accordo. Ma sono pazzi secondo lei? Aggiunga che vogliono chiudere i circhi, il Bagno di Siena, la sperimentazione e il presente l'ultimo premio Nobel di 10 giorni fa, hanno vinto il premio Nobel due che sperimentavano sulle rane e sui topi, e secondo gli animalisti fondamentalisti. Ma è giusto sperimentare sulle rane, per esempio? Sì, fra una rana, una donna e un uomo preferisco la rana. Cioè sperimentare sulla rana. Sono assolutamente convinto che è meglio la rana. Cioè è meglio, comunque è giusta la sperimentazione sugli animali, dice lei, no? Giusta, è obbligatoria, se non si sperimenta almeno su due specie animali non si possono brevettare farmaci. Cioè a lei non fanno orrore quelle scene in cui si vedono gli animali che vengono un po' seviziati o comunque... Io voglio che la ricerca venga fatta con tutti i criteri, vabbè, delle direttive di sicurezza, ma se devo scegliere, l'ho detto un milione di volte, quando Barnard ha cominciato a fare i trapianti di cuore, credo che sia giusto che abbia prima testato sulle scimmie e poi con una certa sicurezza l'abbia fatto sugli uomini. Comunque, mi piacerebbe che la facessero direttamente su Cruciani e Parenzo. No, questo no, ma io guardi che su questo l'appoggio... No, una cosa Giovanardi, davvero, con grande rispetto. Comunque è una nuova grande battaglia di Giovanardi, questo l'abbiamo capito, ormai... Sono molto felice che il mio amico, non so se è amico, comunque insomma, che l'onorevole Giovanardi si occupi di circo e ci lasci quindi fumarci una bella cannetta in pace e tranquillamente... Anche perché, Cruciani, ci sono delle cose che Sgarbi ha sottolineato da par suo. Aspetti un attimo, devo dare una notizia. Formigoni attacca la Santanchè. Questo interessa sicuramente anche a Giovanardi. E dice, di che materiale sei fatta? Forse di plastica. Beh, Daniela, se il silenzio è d'oro, tu che parli senza interruzione, di che materiale sei fatta? Non dirmi banalmente di plastica. Cioè, accusa la Santanchè di essere fatta di plastica, di essere sostanzialmente ritoccata, rifatta. Siamo ormai... volano gli stracci, Giovanardi, volano gli stracci all'interno del PDL. Vabbè. Ma guarda, io vorrei riportare un po' di ragionevolezza in Italia. Beh, no, la ragionevolezza non ci piace a noi. Non ci piace. Anch'io che ci sono 7-8 casi ogni anno di Doberman o di cani che sbranano la badante o aggrediscono il padrone, ma non per questo. Sono dell'idea che le milioni di persone che hanno dei cani in Italia non possono tenere il loro cane nella casa e nell'appartamento. Non capisco però perché quelli che vogliono giustamente tenere il cane in appartamento poi vadano davanti ai circhi a voler mandare sull'astrico migliaia di famiglie circensi, il circo equestre, il difensore dei circhi, cancellando un qualcosa che Fellini esaltava. Il cardinale Ravasi l'altro giorno ha detto il circo è un luogo paradisiaco dove c'è l'incontro fra uomini e animali. Adesso non è che se l'ha detto il cardinale Ravasi dobbiamo essere tutti d'accordo, ma a me, io non ho nulla contro il circo, a me mi sembra una follia, naturalmente ci dovranno essere le regole, mi sembra una follia protestare contro i circhi oggettivamente, però vada fino in fondo Giovanardi, questi animalisti, allora io credo che gli animalisti sono degli estremisti pericolosi, lo dico. È una grandissima questione economica, perché ma l'idea va bene e colpire tutti gli allevamenti, hanno cominciato con i visoni, facendo scappare gli animali. Parenzo, dai un tuo commento. Poi con i conigli, poi con le pellicce, poi adesso con i maiali, poi con i cani, poi con i circhi, poi con il Bagno di Siena, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo invece che tolleranza sia quella di dire se il Parlamento in Italia vorrà abolire, abrogare, si faccia, ma non. Però Giovanardi, lei è arrivato a italiani. Per obbligarli, attenzione, una cosa gravissima. Chi gli animalisti fanno manifestazioni. Ma è una sua collega di partito, la Brambilla, la principale sostenitrice. Io non posso condividere la violenza di chi vuole imporre. Ma lo dica che è fuori di testa la signora Brambilla. Su, no, non condivido la sua idea. Com'è che è così fissata con gli animali? Però secondo lei? Cosa succede in Italia? Faccia conto che a Palermo, in Sicilia, chi vuole taglieggiare i negozi, intervenga il sindaco per dire: per evitare questo sconcio chiudiamo i negozi. Allora cosa fanno i sindaci? Sì. Davanti alle proteste degli animalisti dicono: faccio un'ordinanza perché viene turbato l'ordine pubblico, quindi proibisco al cinema. Ma lei ha animali a casa? Giovanardi, lei ha animali a casa? No, ne ho avuti adesso in questo momento. No, ma ne ho avuti. Ne ha avuti animali a casa? Certo. In questo momento nulla, come mai? No, in questo momento no, perché non ho le condizioni per farlo. L'ho avuto quando Parenzo, tu ami gli animali? Si chiamava Pallino. Io da ragazzino. Come si chiamava? Straordinario. Come si chiamava? Un cane aveva? Pallino si chiamava. Pallino, vabbè, banale però, Pallino. No, Pallino, il cane di Giovanardi si chiamava Pallino. Sì, però lo consideravo un cane. Come? In che senso, scusi? Come ha detto l'altro giorno Meluzzi, citando San Tommaso, le pietre vanno amate come pietre, i vegetali come vegetali. Cioè, in che senso lo consideriamo un cane? Animali, gli uomini come uomini e Dio come Dio. Non, gli animalisti invece ritengono che gli animali siano esattamente uguali agli uomini. Ah. E quindi ne traggono tutta una serie di conseguenze che secondo me sono aberranti. Lei, cioè, se dovesse salvare un cane dalla morte lo farebbe, cioè buttandosi sotto... Ho già detto che se devo salvare un bambino o un cane dalla morte... Quello vabbè. No, come, ho sceglie preso il bambino, quei, no, scusi, sceglie ho il bambino. Preso tanti di quegli insulti che non finiscono più quando ha fatto questa affermazione. Cioè? Perché secondo gli animalisti ho detto: se affonda la nave o 10 cani e un bambino, cerco di salvare tutti, ma lei stessa salva il bambino. E mi hanno detto: tu fai affondare 10 esseri umani per salvarne uno. Ma no, ma quello. Come no? Ma no, ma quello sarebbe. Cioè, questo è evidente è la che cultura del fondamentalismo animalista. Che sta ma la Brambilla, la Brambilla, la Brambilla è fondamentalista, sì. Chiama i cani. La Brambilla è fondamentalista perché noi vogliamo introdurre in Italia una direttiva europea che è severissima sul benessere animale. La Brambilla vuole proibire in Italia l'allevamento degli animali che servono per testarli e quindi far andare all'estero. Ma la senti che passione, Parenzo? Ma la nuova 12.000 ricercatori. No, lui, è presente Marino, Marino un attimo PD. Solo Giovanardi, un attimo solo. È presente Ignazio Marino PD che la pensa diversamente da me in tante cose. Abbiamo spiegato insieme, lui PD, io PDL, al ministro, che se passa questa linea di vietare gli allevamenti, l'Italia manda all'estero 6.000 ricercatori. Hai capito? E in Italia non si può più brevettare un nuovo farmaco. Parenzo, ma hai capito? Giovanardi, io su quei Giovanardi, a lei dispiacerà probabilmente, io se fossi vicino a lei lì a Modena, la abbraccerei, perché ma fortissimo la abbraccerei, e le darei anche un bacio sulla fronte, perché finalmente sta dicendo delle cose di assoluto buonsenso, ma... e sono felice. Finalmente Parenzo è libero. Finalmente Parenzo. Viva i circhi. Devi candidare l'elefante di Moria Orfei in lista ora. Viva i circhi. Viva i circhi. Quello che fanno roba non me ne frega un cazzo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Beh, abbiamo scoperto, caro Parenzo, la nuova grande passione di Giovanardi, la difesa dei circhi. Un altro goccio di champagne, per cortesia, grazie. Lo Pronto? Champagne, anche lo champagne. Sì. Ah no, siamo in diretta? Siamo in diretta, sì. Dov'è che stai passeggiando a champagne, scusa? Dico io, banchieri, lobby d'affari, grandi faccendieri, questa è la sinistra. Come amico dei banchieri, sei amico dei banchieri come D'Urso, pasteggi a champagne e poi ci rompi le scatole sugli operai che si appendono le tralicce, che protestano contro la disoccupazione, contro Aspetta la chiusura delle fabbriche. No, non è abbastanza freddo, lo rimandi, no, ne voglio un altro, rimandi via, per cortesia. Pronto? Scusi, ma è vero Giovanardi che Berlusconi ama i circhi? Questo l'ha detto Sgarbi, io però più che i circhi, ci metto anche i circhi, difendo qualche milione. Vabbè, questo l'abbiamo capito, che produce, su. E si nutre e si vede. Ma l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Ma tutto il Made in Italy, tutto il Made in Italy. Sì, ho capito, su, adesso non verrà evitare di fare non verrà distrutto le pellicce con gli animali. Ma non verrà, dunque per lei è giusto fare le pellicce? No, è giusto che chi vuole comprarsi delle pellicce se le compri, senza che i pellicciai italiani siano costretti ad andare a comprare le pellicce in Cina o in tutti i paesi. Dunque è giusto Sì, ho capito. Chi contesta che vengono allevati gli animali, dunque che vengono andare a comprare all'estero, creando disoccupazione in Italia. È giusto squartare gli animali per la pelliccia? No, non è neanche giusto fare i derivati del petrolio, perché per andare a pigliare il petrolio ci sono le guerre geopolitiche, ci sono persone che muoiono, ci sono i mari che vengono inquinati. Sì. e quindi anche a me dispiace che gli animali, per esempio, quando mangiano una bistecca a un certo punto vengano soppressi, sì. E oggi nella maniera più civile possibile. Però è assolutamente giusto, è naturale, è antropologicamente giusto, teologicamente giusto e dal punto di vista nutrizionale assolutamente giusto che si mangi la carne. Un attimo. Cos'è? Biancofiore da Renzi. Ah, ottimo. Posso andare in bagno un attimo? No, tanto? Non puoi andare in bagno. Devi aspettare. È scaricato. Non lo so, davanti a un senatore della Repubblica scarichi il bagno. Anche lui andrà in bagno, no? Ho capito, mica lo fa adesso davanti a noi. No, voglio dire, adesso non voglio fare polemica, ma Giovanardi quando è in bagno tira l'acqua o no? Perché ma certo che tira l'acqua, che lascia l'acqua. E allora che volete da me? Ma ho capito, non è che vogliamo qualcosa. Aspetta che si è bloccato tutto. Ma sei indelicato. Aspetta, ma lo, no, sai che, lo sai che una volta non risponde la Brambilla? Sì, la Brambilla, la Biancofiore che è andata alla convention di Renzi, non so dove, a Trento, a Bozzano. Lo sai che una volta io ho mangiato il cane, Parenzo? Ma dove? In Cina? In Corea, ho mangiato il cane. Sono andato a un ristorante di cane. Io quello non lo farei mai perché ho un grande rispetto per i cani. No, ma che c'entra? Quelli sono cani di allevamento, non esagerare. Lì c'è quella tradizione, anche se un po' nascosta, adesso si vergognano un po'. Però ho mangiato un cane, l'ho fatto per sperimentarlo. Sapore dolciastro. A me non piace, fai schifo. Cioè, io ma no, perché faccio schifo? È come tu dici. È una questione di gusti, è una questione di gusti. Scusi, perché? Giovanardi, lei ha mai mangiato un cane? No, sono andato in ristoranti in cui si mangiava da cani, quello sì. Questo non è male, però. Ma lei lo mangerebbe un cane? No. Vabbè, però non c'è niente di strano, ma nemmeno per... No, per ragioni culturali, come gli indiani hanno qualche difficoltà a mangiare le vacche sacre, nella mia cultura ho qualche difficoltà a mangiare un cane. Scusi un attimo, ma mettere i... Lei ha fatto un paragone piuttosto strano tra... E gli animali che sono ai circhi e vengono ammaestrati e i bambini a scuola, c'è una bella differenza. No, però. È assolutamente strano perché l'altro giorno, per esempio, vedevo la polizia proprio qui a Stazione Termini che stava addestrando dei cani in funzione antirapino oppure quando i vigili del fuoco per tirare fuori nei terremoti oppure per le valanghe. I cani vengono addestrati giocosamente perché oggi tutti gli animali. E che c'entrano con i bambini? Così. Scusa, che c'entrano con... Anche Sgarbi ha detto l'altro giorno: cito Sgarbi perché è un amico, che non si capisce perché i bambini, cioè i cuccioli di uomo, siano tenuti nei banchi da quando hanno 5 anni, devono stare seduti anche in una posizione difficile per loro, e appunto essere educati e imparare le cose. E invece un cane, un gatto, un altro, o un cavallo non debbono essere a loro volta educati. Ma sono cose diverse. Feltri, perché ho visto che il giornale è molto animalista. Feltri è molto animalista. Da cavallo. Feltri è molto animalista, sì. No, ma se vogliamo difendere però essere coerenti con gli animalisti estremisti, liberiamo tutti. Ma perché i cavalli devono essere montati? Ma perché devono portare feltri i cavalli? Oppure perché devono essere il dressage? Allora, fuori... Tutti quelli, ma anche i cani non dovrebbero cavalcare. Cioè, tutti gli animalisti come feltri non dovrebbero cavalcare, dice lei. No, se fossero quelli, no, se io seguissi le loro tesi estremiste, dovrei arrivare. Loro dicono liberi tutti, tutti fuori dagli allevamenti, ma liberi tutti. Allora. Ma anche... Feltri non credo che lo dica, però. No, ho detto se fossero conseguenti. Ma Feltri è un estremista, dunque, secondo lei, dell'animalismo? No, il giornale è molto animalista. Perché Feltri è animalista? Anche Mimun animalisti, il TG2 animalista, sono tantissimi direttori. Credo che i cani di Green Hill siano diventati delle star a livello nazionale perché li abbiamo visti per televisione nei TG1, nei TG5, quasi tutte le sere. Cioè lei dice c'è una propaganda animalista nei telegiornali italiani? Assolutamente, ma la lobby degli animali ieri a Montecitorio con Sgarbi, con Meluzzi, con i Toni, tutto il circo italiano, la conferenza stampa, è andato su un telegiornale, uno. Tutti gli altri l'hanno ignorato. Cioè i grandi direttori, lei dice, sono animalisti e dunque... Molti sono... C'è una lobby animalista. Fatto da dire, ve ne accorgerete anche voi. Quando uno piglia una posizione in un telegiornale sugli animali, arrivano 400-500 email di insulti, maledizioni, minacce, da tutta una serie Parenzo, hai capito? Di realtà animaliste organizzate, ma non quelle con cui si può dialogare, ma quelle per esempio che fanno gli attentati. Voi sapete che la Digos monitorizza, perché purtroppo quasi ogni giorno c'è un furgone di imprese di carne che viene fatto saltare, viene incendiato un negozio. Ma lei è stato minacciato? Lei è stato minacciato sul serio? Sì. E la Digos c'è cioè la... Sì, no, adesso, la Digos sa e ha sotto monitoraggio questi fronti di liberazione animale sono contigui ad ambienti di, si chiama anarco-animalismo, no? Anarco-animalismo, anarco-animalismo. Basta mettersi informarsi dalla Digos delle azioni volente che stanno portando avanti. Non confondo questi con, cioè, ma scusi, lei si sente in pericolo? Lei si sente in pericolo, Giovanardi? E tutti gli allevamenti di visione li hanno distrutti, No, ma dico lei personalmente si sente la famosa giraffa l'ha fatta scappare, quella giraffa poveretta che è morta l'hanno fatta scappare tagliando la cimosa e poi l'hanno ammazzati i vigili sparandogli un anestetico quando poi i circhi in ginocchio li hanno pregati di non colpirla spiegando che così l'avrebbero ammazzata e allora l'hanno fatta scappare, gliel'hanno ammazzata, 30.000 euro di danni e il giorno dopo il sindaco ha detto andate via, 40 famiglie. Ho capito, ma lei si sente in pericolo, sì o no? No, io... Si sente un po' in pericolo, si sente un po' sotto... Mi sento insultato, mi dispiace quando arrivano le minacce di morte, quando viene coinvolta la famiglia, perché io poi ritengo che... Ma non è che ha chiesto la scorta per questo? Ha chiesto la scorta? No, non ho chiesto nulla, io prendo solo... No, che ne so, l'hanno messa sotto... C'è un clima, ma l'hanno messa sotto protezione? Nel quale c'è un clima nel quale questo dibattito che io vorrei fosse molto sereno. Ripeto che, per esempio, nella ricerca ne dipende per il futuro la vita di milioni di persone che dalla ricerca scientifica possono trarre giovamento. La Revi Montalcini, per esempio, ha avuto il premio Nobel su ricerche che ha fatto attraverso... Però, scusi, lei ha presentato delle interrogazioni in piena recessione economica, i cani da valanga vengono violentati, lei dice no. No, cioè, interrogazioni in Parlamento in piena crisi economica. Parenzo, arrabbiati! Italiani in piena recessione economica è un volano straordinario di ripresa e di sviluppo economico. Ma poi come si fa a paragonare gli elefanti al circo e bambini di 4-5 anni che stanno a scuola? Scusi. No, bisogna andare in Africa. Chi può andare in Africa e pigliare l'aereo, allora può andare a vedere anche gli animali. No, ma gli elefanti al circo, lei li ha paragonati ai bambini di 4-5 anni che... No, ho detto che non vedo perché un bambino debba stare 4 ore seduto, quando è invece un animale... Ma mica viene costretto, mica viene costretto. Essere ammaestrato, educato a fare esercizi, così come... Il bambino è educato sia dal punto di vista mentale ma anche dal punto di vista fisico. Ma mica viene costretto. Perché anche il bambino viene costretto perché deve fare educazione fisica, deve fare i piegamenti, deve studiare. La nuova grande passione. Ma anche un cane viene educato se vuole stare. Non è il padrone che porta in guida. Parenzo, reagisci, reagisci. Viene educato a non fare la cacca dappertutto. O almeno dovrebbe essere educato. Reagisci, così. Parenzo. Ma gli sto dicendo che purtroppo è tornato il solito Giovanardi che conosciamo. Perché? Ma come perché? Perché già uno che fa un'interrogazione parlamentare, come tu giustamente hai notato in un momento come questo, su queste e queste, perché un conto è se lui fa un comunicato, ma addirittura un'interrogazione parlamentare, è tornato il solito nostro amico Giovanardi, quello che conosciamo. Su cosa? No, sulla questione dei circhi, eccetera. Ci sono decine di migliaia di lavoratori. Vabbè, ma che ci facciamo con l'interrogazione? Rischiano di fallire le loro imprese. Ma il governo non è che può intervenire. Di rimanere a casa, di non avere da mangiare, secondo voi è una cosa secondaria per questi lavoratori? Giovanardi, l'ultima cosa, lei quante legislature ha fatto? Tantissime. Quanto? Che fa, si ricandida? Guardi, io posso dire un elenco che ho fatto perché io vi lancio un'idea. 5, quasi 6. Scalfari, Mauro, De Bortoli, Vespa, Baldo, Lavenier, Costanzo, ho visto che ci sono. Ma che c'entra? Direttori di giornali che parlano di rottamazione, alcuni hanno cominciato a scrivere nel 39, altri erano già direttori del 92 della Ma che stampa. C'entra, scusi? E anche Cruciani e Parenzo. No, anche i capi di Stato Maggiore dell'Esercito, mettiamoci i capitani. No. Io sono per la rivoluzione culturale. No, però mi scusi. Via tutti. Ma che c'entra? Lei fa un paragone con altre professioni che non c'entrano nulla. Lei fa... No, non c'entra nulla, scusi, ma perché Mauro deve essere ancora... Ma quello lo decideranno... Ma lo deciderà De Benedetti, lo deciderà De Benedetti. Appunto, e lo decideranno gli elettori. Se io domani voglio fare un partito e voglio fare il partito Viva Giovanardi, qualcuno mi può impedire di farlo? No, ma ho capito, ma lei si vuole... Se venga eletto bene, se non venga eletto... Ma lei vuole restare in Parlamento, sì o no? Che lo decide? No, ma lo decideranno gli elettori, anzi, mi ha dato un'idea. Farò un partito con scritto Viva Giovanardi, poi se piglierò i voti. Ma ed lei è più trasparente forse il fatto che io stia lì di quanto qualche personaggio che da 50 anni imperversa continua a essere lì, magari perché è bravo. Però quando è lì da 70 anni, ma lei 80 anni... Ma lei vuole ricandidarsi, sì o no? Non lo so, guarda, io non so neanche se non sa neanche. Fra 6 mesi ci sarà ancora il PDL, non ci sarà il PDL, quello non c'è dubbio. Quale legge elettorale ci sarà? Quello non c'è dubbio. Quindi, come tutte le persone sagge, sto alla finestra. Sta zitto. Facciamo una canzone per vedere di nascosto l'effetto che fa. Si ricorda il leone? Com'è però, che fa? No, tu no. Com'è che fa? Diceva, andremo tutti allo zoo comunale con la bimba a parlare d'amore e urlare aiuto, aiuto, è scappato il leone per vedere di nascosto l'effetto che fa. Tu dice vengo anch'io a vedere, vieni anche tu, non lo so. Giorgio da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Dica. Emiliano, come chi mi ha preceduto, però di pensiero diverso. Io volevo fare un intervento politico, anche se sono un allevatore di maiali all'aperto, per cui... Però vada veloce. Allora, il mio intervento è questo qua. Siccome io fra un po' si deve andare a votare, siccome noi abbiamo legittimato tutti i politici che sono destra e sinistra, per cui sono là perché li abbiamo voluti noi. Allora? Io quello che mi chiedo adesso, ma se noi adesso cambiamo totalmente, andiamo a votare il Movimento 5 Stelle... E che questi praticamente, perché non sono nuovi, no? Renzi non è nuovo, fa parte di quella politica, 1.100.000 persone, l'indotto politico. È così sbagliato pensare che un movimento estremamente nuovo, con persone nuove, possa dare anche delle visioni nuove a quello che deve essere la politica? Io faccio questa domanda. Ma che ne so, Giorgio, questa domanda alle 20.49, alle 20.49 non ne posso più, una domanda così seriosa, se Grillo può essere la speranza, ma cosa vuole che ne sappia io? Beh, io non lo voto, questo qualcosa, è sicuro. Devo andare a votare. Io non lo voto, su questo non ci sono dubbi, anche se poi ultimamente ho cambiato anche delle posizioni, comunque ho riflettuto su alcune cose e certamente c'è... Ma sono mesi che flirti con Grillo. Ma che flirto con Grillo, non è vero? Mesi che fai lingua in bocca col Movimento 5 Stars. No, col Movimento 5 Stars no. Dico che ho semplicemente detto più volte, anche in alcune interviste che ho avuto così l'onore di fare... Ho detto che questo champagne è caldo, riportatelo via subito. Allora, a proposito di champagne, devo comunicarti una cosa. Un mio amico molto esperto di champagne, un avvocato molto bravo, mi scrive... L'avvocato Trucco sarà? No, non è l'avvocato Trucco. Se lo champagne di Parenzo... Io l'unico avvocato che conosco è Trucco. Sì, ma l'avvocato Trucco non si intende di champagne. Se lo champagne di Parenzo non è freddo, chieda a chi glielo sta offrendo se ha l'abbattitore rapino. Questo è un espertissimo di champagne. Se ha? L'abbattitore rapino Nortec con quattro canotti. Aspetta, chiedi. Abbattitore rapino Nortec con quattro canotti. Prezzo euro 1.095 più IVA. In 4-6 minuti lo champagne raggiungerà la temperatura desiderata. È un abbattitore. Chiedi però, scusa. Adesso appena torna il metro, aspetta un attimo, che appena torna il metro... Allora, Giorgio, non le so dare un consiglio su Grillo. Roberto, cosa vuole che le dica? Claudio metro? Da Prato. Claudio? Metro? Pronto? Dica. Sì, buonasera, dottor Cruciani, buonasera, presto. Volevo parlare un po' del rapporto che c'è fra... cittadini e i politici, forse sì, però non mi annoi, non hanno capito per molto bene la loro funzione. Sì, non mi faccia annoiare, però, Claudio. Non mi no, faccia è vero, annoiare. È vero, non la voglio annoiare, però, sai, sono 20 anni che mi noi faccia ci ridere, mi faccia ridere a vedere, e certo, ormai abbiamo riso abbastanza a vederli. E allora, Cruciani, dunque. No, dico, loro il potere, che cosa intendono del potere? Il potere, fanno scambi di potere, si giocano i voti, scambi dei voti, ma il potere in definitiva, loro non hanno capito che ce l'abbiamo noi elettori, vabbè, ce l'abbiamo, e loro ci devono rappresentare. Vabbè, Claudio, sta dicendo una banalità, con tutto l'affetto del mondo. Francesco da Bari intanto è l'abbattitore rapido, Nortec con quattro canotti. In 4-6 minuti lo champagne di Parenzo raggiungerà la temperatura desiderata. Parenzo? È gente gentile, ma cosa dire? Appena arriva il metro che sta sciacquando. Ma che champagne, quel metro? Non stai prendendo nulla te, questo è il punto, non stai bevendo ma nulla. Ma come no? Era un'invenzione. Adesso te lo twitto pure la foto dello Francesco champagne. Da Bari, buonasera. Salve, scusi. Buonasera. Aspetti un attimo, un aspetta. Un po' come un giapponese. Aspetta. No, nella giungla. Aspetti un secondo, Francesco. Parenzo? No, mi dicono che per lo champagne ci vuole l'abbattitore, come si chiama? Rapido. L'abbattitore rapido, dice il signor Cruciani. Con quattro canotti. Non ce l'ha presente questo. E allora non sa niente però questo magari. Qua. No, non c'è. L'abbattitore rapido. Se lo champagne è caldo, esatto. Esatto. Esatto. E ce l'ha o no? E ce l'ha o no? Andiamo al top. No, non, in questo momento non c'è. Non ce l'ha, insomma. No, questo momento non c'è e quindi non possiamo andare al top. Non è fornito, insomma, diglielo. Sei in un posto pessimo, in un posto che non è alla tua altezza. Evidentemente. Ma sì, in un posto scadente sei. Francesco, allora? Concordo. Evidentemente un radical chic come Parenzo. Ma infatti non me l'aspettavo, pensavo che fossi in un posto talmente di livello che un abbattitore ormai non si nega. L'abbattitore ce l'hanno tutti, l'abbattitore, su. Niente, io dicevo, mi sento un po' come l'ultimo giapponese, perché un po' mi ha sorpreso, mi aspettavo qualche intervento in più su, sulle dichiarazioni di Berlusconi. Cioè, ma le dichiarazioni di Berlusconi su che cosa? Ma era in un'aula di processo. Sulla moglie, su, sulla ma madre non è un... di Rubi, sulla malattia. Ma è imputato. Non si capisce su cosa. Ma scusi Francesco, è un imputato. Ma come vuole che risponda? Sì, ma è un uomo che fa pena. Cioè, e vabbè, quella è un'altra considerazione. Presidente del Consiglio, uno che ha 76 anni. Insomma, un po' puoi ma, continuare. Ma è andato tipo... a difendersi, Francesco, che deve fare? Ma da che cosa si deve difendere? Dalle accuse, è imputato. E si deve difendere dalla verità. Vabbè, lei ha già scritto la sentenza. Ha già scritto la sentenza, la ringrazio. Renato da Piacenza per concludere, 30 secondi, forse meno. Ah, buonasera. Dica. Buonasera, senti, io sono un vegetariano e vorrei dire all'ex ministro Giovanardi che cosa? Cominciare a scegliersi in quale ricovero vuole andare. Benissimo, ci risentiamo lunedì, il ricovero di Giovanardi, la Zanzara torna, vive e lotta insieme a voi. Ma si vergogni, si vergogni. Ma si vergogni lei, no io, no, si vergogni lei. No, si vergogni lei, ma vada via, ciao, va, per piacere, va, ma va. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ciao fanciulli terribili. Radio 24. La passione si sente.